L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta, di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi. Se le api morissero, ci resterebbero solo 4 anni di vita. Ciao Chiara, sì, questa è una frase attribuita ad Albert Einstein. Non si sa se l'abbia mai pronunciata veramente, ma ci starebbe, e dà l'idea del ruolo importantissimo svolto da questi laboriosi insetti nel preservare niente un po' di meno che la biodiversità del pianeta. Dunque, benvenuti a tutti e a tutte a Darwin, e oggi, appunto, come avrete capito, parliamo di api, e la loro esistenza è in questo periodo un po' minacciata. Le popolazioni di api si stanno riducendo anno dopo anno, e la ricerca però sta facendo molto per capire quali siano le cause: inquinamento, pesticidi, cambiamenti climatici, e molto si può fare anche per monitorarle e difenderle. E quindi proveremo a descrivere come, grazie a nuove tecnologie, si può riuscire a conservarle e a proteggerle. Con noi in questa puntata c'è Marta Toppan della startup 3B, B è scritto come ape, quindi con due E, che opera nel settore del cosiddetto agritech, dove appunto la tecnologia viene applicata all'agricoltura e all'allevamento, in questo caso delle api. Benvenuta Toppan. Grazie, un saluto a tutti. Allora, applicate sensori e chip all'interno dell'alveare. Come funzionano questi alveari intelligenti? Sì, abbiamo sviluppato questa tecnologia che permette di ascoltare un po' i parametri vitali delle api, e funziona tramite algoritmi di ricerca IoT e di intelligenza artificiale, e permette appunto agli apicoltori di avere diciamo una mano direttamente da remoto, perché possono ascoltare gli alveari direttamente da casa. C'è un sensore che viene posto all'interno delle api, quindi tra i melari, e acquisisce dati di peso, temperatura, umidità e suoni. E che cosa significa ascoltare un alveare? Cioè, una volta che questi parametri sono stati registrati, che informazioni riceve l'allevatore? Sì, questi parametri, per esempio il peso, significa capire l'importazione nettarifera delle api, quindi come stanno impollinando, se stanno bene le api. Dalla frequenza invece capiamo un dato importantissimo, capiamo se le api sono in febbre sciamatoria, quindi se stanno uscendo dall'alveare palesemente, e questo significa che l'apicoltore potrebbe trovarsi senza le sue api da un momento all'altro. Con la tecnologia riesce a capirlo, a prevenirlo in tempo, perché è una tecnologia predittiva, e andare a intervenire appunto in modo tempestivo. Quando dice frequenza, lei intende proprio il ronzio? Esatto, sì, parliamo proprio del buzz della ape, e delle frequenze sonore della regina, perché sono leggermente diverse, che permettono appunto di capire se sta succedendo qualcosa. E ovviamente gli apicoltori hanno maturato un'esperienza, e noi attraverso appunto l'intelligenza artificiale e l'elaborazione dei dati, l'interpretazione, riusciamo a notificare con un'assistenza H24 che cosa potrebbe star succedendo all'interno appunto dell'arnia. Di fatto gli apicoltori ricevono, attraverso appunto questa applicazione, dei messaggi di fatto che indica loro come agire? Esattamente, e gli apicoltori ovviamente sanno come comportarsi con le api. Non vuole essere un sostitutivo del lavoro dell'apicoltore, perché senza gli apicoltori noi non avremmo le api. Certo. È importante dire che le api in natura, senza la mano dell'apicoltore, non esisterebbero. Infatti, diciamo, l'alveare di Winnie the Pooh non lo vediamo ormai da diversi anni, e per cui non vuole essere sostitutiva, vuole essere appunto un sistema di supporto. Il vostro progetto propone anche l'adozione di un alveare, no? Per sostenere il lavoro di uno specifico apicoltore, il quale però si impegna anche a dare del miele prodotto dall'alveare. Questa cosa come funziona? Come si fa a partecipare? Assolutamente sì, abbiamo pensato poi di associare al nostro sistema di tecnologia un servizio di adotta un alveare, che permette a chiunque di proteggere un alveare a distanza, dove si può sostenere appunto l'apicoltore andando a scegliere l'apicoltura preferita. In Italia ne abbiamo ormai oltre 50 distribuite su tutto il territorio, selezionare l'arnia, selezionare la tipologia di miele che si vuole ricevere secondo diversi piani, e subito si avrà a disposizione dati per l'accesso e il monitoraggio dell'area dell'alveare, un certificato d'adozione e solo in stagione riceverà il miele. Avete pensato anche ad essere sostenuti in qualche modo attraverso dei progetti di responsabilità sociale anche rivolti alle aziende, quindi anche grosse corporate che sposano questa idea. Allora, come possiamo trovare tutte le indicazioni per sostenere questo progetto? Per sostenere questo progetto, anche quello corporate, quindi il nostro Pollinate the Planet, basta andare sul sito www.3b.it o scrivere a info@3b.it e chiedere direttamente di uno di noi e costruiamo insieme il nostro progetto, la nostra iniziativa per la sostenibilità. Va bene, anche sulla nostra pagina metteremo il link sul sito di radio24.it. Grazie davvero Marta Toppane e in bocca al lupo davvero per questo bel progetto. Altrettanto, grazie. Buon miele, arrivederci. Arrivederci. Allora, 3BE, come le api, 3BE.it. .it, esattamente. Per questa puntata è tutto, noi ci sentiamo presto, ovviamente dal lunedì al venerdì alle 20.50 qui su Radio 24. Ciao Federico, ciao a tutti. Ciao Chiara. Da Ravenna, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.